Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Quella che voglio raccontarvi oggi è soprattutto la storia di un'amicizia, di come da un'amicizia vera possa nascere il successo, se è sorretta dalla voglia di essere artisti, dal talento, dall'attitudine a stare sul palco. È una storia anche di riscatto, di rivincita, che arriva dalla provincia napoletana, da uno di quei piccoli centri ai piedi del Vesuvio che ormai fanno praticamente parte integrante di Napoli. È un territorio ricco d'arte, di talento, vicoli, case nelle quali risuonano accenti speciali di un dialetto pieno di musicalità. È una zona controversa, insomma, dove si alternano brutture e cose meravigliose. Un accento, una zona e un accento che è stato reso celebre nel mondo dai giganti del teatro italiano. Sì, signore, confesso, mi sono venduto la scuola. Piano. Ma perché l'hai venduto? Perché io mi pensavo che zio Pasqualino non si alzava più. Oh, mamma mia, voi lo sentite? Insomma, io aveva morito. Aveva morito il Pasquale. Era morito, cioè no, non è che aveva morito, perché io sono sfortunato, che sia la verità, sono sfortunato. Il medico, quando lo venne a visitare, parlò chiaro, no? Aspetta un momento, il medico ha parlato chiaro con chi, ma che mi si nasconde qui? Pasquale non dovete, che sei un bruglione bucciardo. Sì, è un bruglione, sì. Il medico disse che c'era pericolo, ma nessuno sta morendo, no? E allora io che va fa? E questo è il grande Edoardo De Filippo. Ti piace o presente la scena del Natale in casa Cupiello? È impossibile non fare i conti con le sue opere, se stiamo parlando di teatro e di napoletanità. Ma non è la sua storia che vogliamo raccontare. Oggi raccontiamo la storia di tre ragazzi saliti sul palco di un teatro di quartiere per la loro passione, che poi hanno trovato un incredibile successo. Tu, Marie, fai i figli di Salvatore. Gabriele ti ha dato la buona notizia. Annunciazione. Gabriele, a parte il fatto che io non sono Marie, guarda. E hai fatto un riconoscimento. Annunciazione. Tu, Marie, fai i figli di Salvatore. Annunciazione. Tu, Marie, fai il figlio Salvatore. Gabriele ti ha detto la buona notizia. Annunciazione. Gabriele, tu sei scemo. È sfido a trovare qualcuno che non si ricordi di questo sketch. È uno dei pezzi comici più famosi del gruppo La Smorfia. È fortunatissima esperienza, prima teatrale e poi televisiva. Il gruppo La Smorfia, con il grande Massimo Troisi, ma anche con altri due grandi, Lello Arena e Enzo De Caro, sono partiti giovanissimi dalla provincia napoletana. Il viaggio artistico è partito da lì e si è concluso idealmente con le 5 candidature all'Oscar per il postino di Massimo Troisi, il cui viaggio, ahimè, è terminato molto presto. Se tu fossi qui, questa, come vi ho detto all'inizio, è una storia di amicizia, di ragazzi che condividono una passione, ma anche i problemi di un territorio depresso. Insomma, il lavoro che non c'è, per esempio, è il primo di questi problemi. Il gruppo è, non voglio dire guidato, però insomma, quello che spicca, quello che fa più ridere nel momento in cui loro si esibiscono, la centralità è sua, si chiama lui, Massimo Troisi. Nasce a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio del 53. È un ragazzo sveglio, con una passione naturale per l'arte, però ha una difficoltà supplementare rispetto a tutti i suoi coetanei, perché fin da bambino è malato di febbre reumatica, soffre di disturbi cardiaci, ha una grave degenerazione della valvola mitrale che è resa ancora più pericolosa da uno scompenso cardiaco. È una situazione che lo condiziona, che lo condizionerà per tutta la vita. Lui non ama parlare ovviamente di questo quando lo intervistano, però è una spada di Damocle che pende sulla sua testa, e lui si rifugia nella lettura, nella scrittura, compone poesie, si ispira a Pierpaolo Pasolini. Dopo le scuole medie si iscrive all'istituto per geometri, ma il suo non è certo un andamento scolastico esemplare, anche perché tra i suoi interessi domina già il teatro, e ha 15 anni quando esordisce per caso. Siamo nell'ottobre del 69, dei ragazzi a San Giorgio a Cremano hanno messo in scena delle farse napoletane nel teatrino della parrocchia di Sant'Anna. Uno degli attori rinuncia, viene chiamato Massimo, che tutti conoscono per la sua simpatia. Insomma, è il suo primo spettacolo ed è anche l'incontro con un altro membro della futura Smorfia, Lello Arena, che è di Napoli, Napoli città, però si è trasferito qualche anno prima proprio a San Giorgio. È un trasloco che all'inizio lui subisce, se la prende coi genitori, ma da grande insomma ammetterà che questo trasloco a San Giorgio a Cremano era un appuntamento con il destino, perché lui se no non avrebbe mai conosciuto Massimo in quel lontano 69, all'inizio di una collaborazione, ma è anche l'inizio di un'amicizia che durerà tutta la vita. Il falco e il gabbiano. E così due terzi del trio della Smorfia esordisce nel 69 in questo teatro parrocchiale di San Giorgio a Cremano. Troisi non aveva mai recitato, viene chiamato per una sostituzione all'ultimo minuto e conosce Lello Arena, che racconta così quell'incontro in una vecchia intervista. Massimo è politicamente iperattivo, è in tutti i comitati di scuola e interviene sempre. Però ogni volta che apre bocca, per quel suo stile strampalato di spiegarsi, gli altri ridono, anche se sta esprimendo concetti importanti, e alla fine è sempre abbacchiato. Ma che vita mi aspetta se la gente ride quando dico cose serie? Comunque, Troisi accetta la sostituzione anche se non ha mai recitato. Gli spiego che deve impersonare un salumiere che elenca i prodotti tenuti nel cestino. Il giorno dopo entra in scena e inizia. Ci sta o salame, poi o capocollo, e poi... No, scusate, ha già sbagliato. Cioè, prima ci sta o capocollo, e poi... E via così. Una scena di 20 secondi dura 20 minuti. Un successo strepitoso. E piano piano Troisi entra nella compagnia, ne diventa un membro stabile, si passa in un garage sempre a San Giorgio, e a un certo punto questo garage diventa il Centro Teatro Spazio, un'esperienza aperta a molti ragazzi che hanno voglia di recitare. E lì ci sono molti giovani amici, perché oltre a Troisi e Arena ci sono Nico Muzzi, Valeria Pezza, amici d'infanzia, e poi si aggiunge un altro ragazzo di Portici che si chiama Vincenzo Purcaro, che poi cambierà il proprio nome in Enzo De Caro, il terzo elemento della futura Smorfia. Il loro nome all'inizio è RH negativo, mettono in scena farse, pezzi teatrali che mischiano la tradizione napoletana con un nuovo spirito ironico, dissacrante, in linea anche con i tempi. Troisi e Arena scrivono i testi, lo conferma Renato Barbieri, uno dei maggiori animatori di quell'esperienza, ahimè anche lui scomparso qualche anno fa. Tutte le domeniche, il sabato e la domenica, e le domeniche prevalentemente, la mattina si facevano spettacoli di burattini per i bambini, e di pomeriggio poi c'erano le farse che scrivevamo assieme, un po' tutti quanti dando una mano, ma prevalentemente era Massimo e Lello che scrivevano ste farse, e per poi recitarle la domenica pomeriggio. Misteriosamente si è acconciata sta giornata. E il gruppo va avanti fino al 1976, quando arriva uno stop improvviso e molto problematico, perché Massimo sta male, deve operarsi, deve sostituire la valvola aortica, un intervento difficile, bisogna andare negli Stati Uniti, ci vogliono molti soldi, e qua per aiutare Massimo si attivano tutti gli amici, tutta San Giorgio a Cremano. Lo stesso Troisi ricorderà in un'intervista con la Colletta dicendo: quando mi servivano tanti milioni per farmi l'operazione al cuore, i miei amici li hanno trovati in 2 settimane. L'intervento riesce, Troisi è salvo, ahimè, almeno temporaneamente, riparte da quel teatro, il gruppo però si assottiglia, rimangono in tre, Troisi, Arena e De Caro, questa volta il nome scelto è i Saraceni, Massimo, come ricorda Arena, era ovviamente il fulcro di questo trio. Massimo era l'angolo acuto del nostro triangolo, ed è sempre stato il pulcinella che discendeva da un pulcino e non da un uccello rapace. Mi ricordo quando, magrissimo, con la calzamaglia nera, entrava in scena. «Nella nostra vita», mi diceva, «non avremmo mai potuto fare nient'altro che gli attori. Ci univa un'infanzia con le radici affondate nella stessa cultura». Ma quello che li unisce artisticamente è la considerazione che nella tradizione napoletana non esiste un vero e proprio cabaret, esiste un vastissimo teatro brillante anche da, per ridere, ma non c'è il cabaret, gli anni sono quelli giusti perché il cabaret sta vivendo un momento d'oro a Milano e anche a Roma, la recitazione è un tratto distintivo dell'essere napoletano, insomma il loro repertorio è composto di sketch che guardano alla realtà, sbeffeggiano alcuni aspetti della napoletanità e parlano della disoccupazione, della povertà, della devozione per San Gennaro, riescono a essere autoironici. Io sto qua, tu già mi conosci a me, no? E sono sempre quello che se mi potesse fare grazie, che non avesse parlato proprio, San Gennaro. Tu giusto, sei so cliente qua. Che non mi voleva a chiesa a fianco. E ci ma perché mi trovo buono qua? San Gennaro non mi fa mancare niente, e va che va. Sincero, si potesse anticipare un po' che pratiche che la grazia. Non c'è bisogno, mi capisci? Se ce n'hai. Ma fanno di fa. San Gennà, buongiorno! Sta parlando con frate qui. San Gennà, ci stiamo a spiegare, io faccio parlare. Però tu già sai che fai, sono cliente e voglio trattamento. E così i tre si trovano nella camera da letto di Massimo, una camera sommersa di carte, di appunti, con la macchina da scrivere, e loro si ispirano alla realtà per scrivere gli sketch, o meglio per abbozzarli, perché poi una volta abbozzati, insomma, c'è tutta la parte dell'improvvisazione, ma c'è anche il silenzio, come spiega Enzo De Caro. Ciascuno pensava per conto suo e non voleva dire per primo quello che aveva pensato, aspettava che fosse un altro a parlare. Poi si lavorava, si confrontava, si sceglieva il meglio prima di arrivare a un canovaccio da provare in scena. Solo dopo l'esito con il pubblico si arrivava allo sketch definitivo e gli spunti potevano venire da qualunque cosa. Una volta a Natale vidi un presepe con due buoi. Chiesi al custode e lui senza turbarsi mi disse «E questo abbiamo trovato». Da lì venne lo sketch della natività. E quella voglia di comunicare comincia a uscire da quella stanza da letto, arriva nei teatri, il primo è il San Carluccio di Napoli, poi ne arriveranno tanti altri assieme al successo alla televisione. I Saraceni sono pronti a diventare la Smorfia. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di tre amici, di un gruppo comico che ha fatto la storia del cabaret rivoluzionando le regole della comicità napoletana e dello stesso cabaret italiano. La storia del successo della Smorfia di Massimo Troisi, Lello Arena, Enzo De Caro, che parte da un teatro parrocchiale di San Giorgio a Cremano e arriva alla televisione. Per ora si stanno chiamando ancora i Saraceni quando sono al Teatro San Carluccio di Napoli, un attimo prima del colpo d'ala, del viaggio, della partenza della loro avventura. Intanto hanno la forma dello sketch, i loro pezzi teatrali, fanno ridere, raccontano i problemi di Napoli e attaccano con ironia i luoghi comuni della napoletanità. È il problema dell'acqua, uno dei tanti problemi che ci sta a Napoli, è infatti l'acqua che... Sì, e chissà chi è che è andato a dire in giro, dice, il napoletano non ce la fa più, sta con l'acqua alla gola. Immediatamente si sono pigliati l'acqua. Subito, la prima cosa che hanno pensato di fare per ci aiutare. Cioè, questo però fa vedere che c'è questa volontà e cose di aiutarci, e questo ci fa piacere. Poi loro dicono, vabbè, chi lo fatto che non scende l'acqua è colpa degli acquedotti. Dice, gli acquedotti sono complicati, sono difficili da usare, e questo è vero. Sì, no, figurato che a Napoli c'è sta gente che ha gli acquedotti, Invece ci bere, ci mangio. No, no, per cattiveri, proprio perché non hanno capito un meccanismo. E al San Carluccio il Trio ha un enorme successo. È il momento di uscire dai confini di quel mondo. Nel 78 De Caro va a Roma, assiste a uno spettacolo di cabaret, al cabaret La Chanson, però danno forfè gli altri attori. Allora avvicina il proprietario del locale, che si chiama Marcello Casco, e gli propone di rimpiazzarli con i Saraceni. Debutteranno la sera stessa. Il successo è così ampio che lo spettacolo rimarrà 3 mesi in cartellone. Quel successo segna un'accelerazione improvvisa, perché ci sono 2 funzionari della RAI che vanno a vederli, Mario Pogliotti e soprattutto un grande direttore di RAI, Bruno Voglino. Prendono Troisi, De Caro e Arena, li portano davanti a Enzo Trapani e Giancarlo Magalli. Il primo è un regista, il secondo è un autore del programma Non Stop. Entrambi rimangono affascinati da questi 3 ragazzi e aprono loro le porte della televisione. Magalli chiede di cambiare questo nome Saraceni e loro diventano La Smorfia. E l'origine del nome ha a che fare con la mimica facciale, ma anche con la tradizione della cabala napoletana, no? La Smorfia è il modo di interpretare i numeri che escono al lotto. Non stop, non stop, sì, non stop. E nel 78, questa era la sigla del, credo, del Pasador, e il programma era Non Stop. La Smorfia partecipa, poi partecipa a una puntata della Sberla e poi Luna Park, il programma di punta del sabato sera condotto da Pippo Baudo, che potrà dire li ho scoperti io. Il Trio ha un siparietto fisso, una scenografia che richiama un teatrino da marionette. Loro inondano il pubblico di una grande quantità di sketch, dalle parodie delle scene di guerra fino all'Arca di Noè, dove un improbabile Lello Arena nei panni del patriarca fa la selezione all'ingresso. Indietro! Non c'è posto per gli empi in questa luogo di giustizia! Solo gli animali! Solo gli animali, scusate, che sono, non vedete le orecchie, cose, tengo tutte cose. Un animale? Sono un animale, devo salire. E che animale sareste? Sono un gufo. Già si sanno. Già ci... No, ho detto un gufo. No, sono una tigre. Sono arrivata. Un cerbiatto. Ci stanno. Un rinoceronte. Ci sono. Un minollo. Un minollo. Sono un minollo. E che animale sarebbe questo minollo? Cioè, un minollo è... sono un minollo. E il successo televisivo riporta La Smorfia in teatro. Ovviamente questa volta i teatri sono grandi, si entra dalla porta principale, lo spettacolo raccoglie il loro materiale televisivo, si chiama Così è se vi piace, citando ovviamente Pirandello. Il debutto avviene il 3 aprile del 79 al Teatro Tenda di Piazza Mancini e in principio il cartellone prevede solo una settimana. Il successo è terribile, straordinario, si va avanti per mesi, ci si sposta al Teatro Olimpico, poi al Teatro Giulio Cesare. Per La Smorfia è l'apice di quel successo, ma anche l'inizio della fine del sodalizio artistico. E nel momento di massimo risultato, di massima popolarità, inizia una rapida crisi, emergono divergenze, si dice, tra Troisi e De Caro, divergenze forse non solo sul piano artistico, come dirà lo stesso Troisi. Mentirei se dicessi che l'intesa è venuta meno solo sul piano artistico. In effetti si erano create divergenze anche sul piano dei rapporti umani, specialmente tra me e De Caro. Siamo fatti diversamente. Non so chi abbia ragione, ma al punto in cui eravamo correva un out definitivo. Poi c'è stato anche il fatto che non riuscivo più a scrivere mini atti per 3. Diciamo la verità, La Smorfia mi limitava. Per me, che intendo dire tante cose, era come muovermi in un cerchio chiuso. Avrei potuto adagiarmi, tirare avanti per altri 4-5 anni e fare un sacco di soldi. E andò così, lo conferma molto onestamente anche De Caro, che in un'intervista ammette queste divergenze, però rivendica giustamente anche i meriti del lavoro della Smorfia, soprattutto per le generazioni di comici venuti dopo. È durata 5-6 anni, poi gli impegni diversi e quindi la separazione, dolorosa come tutte le separazioni, ma inevitabile, al momento giusto, nel pieno del successo, senza il tempo di scivolare nelle ripetizioni. Non siamo stati capiscuola, ma pionieri sì. Abbiamo scardinato gli schemi della comicità. Non abbiamo eredi oggi, ma i Guzzanti, gli Aldo Giovanni e Giacomo forse devono a noi l'aver fatto da breccia in un nuovo umorismo. La fine degli anni 70 coincide con la fine della smorfia, non con la fine della collaborazione tra Troisi e Arena, che inizieranno la strada del cinema. È un'esperienza che dura pochi anni ma che cambia il panorama della comicità, apre un filone napoletano che fino a quel momento era rimasto inedito, un filone nel genere del cabaret. Però il nostro racconto non è finito, perché nel frattempo Enzo De Caro ottiene successi come attore televisivo, diciamo, e noi abbiamo proprio Enzo qua per raccontarci qualcosa della smorfia. Ciao Enzo. A me mi mette sempre un grande disagio quando ti sento così impostato, padrone della situazione, e sono reverentissimamente ti abbraccio con l'affetto che sai. Grazie Enzo. Senti, noi stiamo raccontando la storia della smorfia. Che bello, grazie intanto per occuparvi di questo, magari qualche under 60, 50, 40, 30 conoscerà anche questa bella storia. No, è una bellissima storia italiana, napoletana, sì. E ovviamente, come tutte le grandi storie, degli inizi che sono difficoltosi rispetto poi alla sua evoluzione. Cosa ti ricordi intanto delle prime esperienze, dei piccoli palchi, di quella che una volta si chiamava la gavetta? Quello che mi piace raccontare sempre è che quando si realizzano questi grandi piccoli sogni di lavorare con i tuoi amici e tu ne sai qualcosa, certo. È la cosa più bella, è che diventa il modo in cui guadagnarsi da vivere facendo le cose che ti piacciono con le persone a cui vuoi bene. Quello che ricordo erano anni bui, non solo di piombo, diciamo in questo angolo di periferia di Napoli. Quello diventa un po' il centro di Napoli a un certo punto, perché un gruppo di ragazzi decisero di fare la loro, chiamiamola così, piccola rivoluzione, ma in teatro, anzi in una specie di garage riadattato a teatro, per dire le cose come stavano. Ed ecco, da non stop è cominciato il nostro percorso. Ma voi in quel periodo lì vi rendevate conto di avere una bomba in mano, cioè di essere destinati a entrare nel costume, insomma avere quel successo che avete avuto? Diciamo che in quel periodo lì la cosa fondamentale era sapere di avere la mensa, che era un fatto abbastanza importante nel corso nell'arco della giornata. Quindi no, credo che è stata una cosa fatta con grande entusiasmo, con grande slancio. L'obiettivo successo, l'obiettivo era molto più ambizioso. Era comunicare qualcosa. A me fanno una domanda alla quale io non ho mai saputo rispondere bene, e immagino che è una domanda che abbia perseguitato anche te negli anni, cioè la domanda poi è: ma perché queste storie che nascono tra amici eccetera poi in qualche modo si interrompono, cioè perché vi siete divisi? Non c'è mai, credo, non so tu che risposta faccio sempre fatica io. Mi accorgo che do sempre una risposta diversa, nel senso che ogni volta c'è una parte del vero, perché non c'è mai un sol motivo. Adesso forse la risposta di oggi è quella che metterei in ordine, in classifica, intanto l'età complessiva dei tre, che superava di poco i 60 anni, sì, quindi esatto, ci metterei una grande dose di immaturità e di voglia di comunque di bruciare, di andare avanti, di certo. Cercare altro, dove magari un piccolo problema anche personale diventa una montagna. Sì, soprattutto piccoli e grandi problemi personali con ciò che c'è intorno, certo. Che improvvisamente comincia a vedere che da delle persone si possono anche fare dei soldi, magari anche molti, e quando entra questo sistema, questo grande potere, la forza del denaro, che non è, che è una cosa fondamentale, è un'energia molto importante, però quando viene mal indirizzata è un grande disastro. E poi ecco, forse non aver avuto quello che tu chiamavi la coscienza, che probabilmente insomma è con un po' di saggezza. Grazie Enzo, ti mando un grande abbraccio. Un grande abbraccio a te. Ciao, ciao, ciao. Ciao, bello, ciao. I colpi d'ala che hanno portato Arena, Troisi e De Caro al successo sono stati enormi, però poi, soprattutto per quanto riguarda Massimo Troisi, ce ne sono stati altri importantissimi, i suoi film, poi film con Mastroianni, con Philippe Noiret, pellicole che hanno segnato il nostro cinema, fino alle 5 candidature all'Oscar del postino del 96, un successo che sappiamo Troisi non ha potuto assaporare perché poi il suo cuore malato lo ha tradito a 12 ore dalla fine delle riprese di quel film. Io mi ricordo perché quel 4 giugno io ero a Napoli e il giorno dopo, 5 giugno, giorno del mio compleanno, abbiamo giocato in uno stadio, lo stadio San Paolo, con 70.000 persone, con uno stadio tappezzato di striscioni di saluto e di omaggio a Troisi che se n'era appena andato. Insomma, un'esperienza molto intensa. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e storie d'amicizie, cioè storie di persone che hanno saputo volare assieme, sostenersi per raggiungere un obiettivo comune. È la storia di tre ragazzi napoletani che hanno lasciato un segno, la smorfia. Ognuno di noi nella sua vita può cadere, ma può anche fare qualcosa di importante, dare un colpo d'ala per volare in alto. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina, venite nei miei social, nei nostri social, Twitter, Facebook, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il falco e il gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Giovanni Savarese, produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.